Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati da Enzo Argante e il traghettatore. Anche noi, anche Ferry Boat, nel suo piccolo, celebra questa giornata contrastata del primo maggio. E parliamo anche noi quindi di lavoro, lo facciamo con due personaggi che hanno una storia importante da raccontare, che ha anche un nome, si chiama conciliazione famiglia-lavoro, cioè a dire come le aziende, piccole e grandi che siano, si occupano della vita privata dei propri collaboratori. Cominciamo con una grande, che è Microsoft, e siamo collegati con Luca Valerii, che è direttore di risorse umane di Microsoft Italia. Buongiorno. Buongiorno. Voi avete, tra le tante iniziative, ne abbiamo scelta una particolarmente singolare, originale ed anche concreta, che è l'Home Office Day. Ce la vuole raccontare? Sì, no, il tema della conciliazione per Microsoft è un tema sempre importante e al centro delle nostre attività. In particolare noi negli ultimi tempi abbiamo sempre più promosso la possibilità da parte delle persone che lavorano in Microsoft di lavorare da casa. Questo oggi è un qualche cosa che le nuove tecnologie rendono possibile in maniera altrettanto efficace che non lavorare dall'ufficio. E quindi abbiamo avuto la possibilità, attraverso appunto questi strumenti che forniamo a tutti i dipendenti, perciò una DSL gratuita, perciò pagata dall'azienda, un cellulare, un laptop, abbiamo dato perciò la possibilità di usare tutti questi strumenti e durante una giornata lo scorso dicembre, nel dicembre del 2010, in cui abbiamo dato appunto la possibilità a tutte le persone che lo desideravano ovviamente di lavorare da casa, ed è stata un'iniziativa che ha riscosso molto successo, più del 50% ha aderito, e dal punto di vista della produttività non abbiamo assolutamente registrato una flessione, anzi abbiamo misurato e registrato un aumento della produttività fino al 20%. Perciò da questa e da altre sperimentazioni che abbiamo fatto, perché poi diciamo l'iniziativa che ha riguardato tutta l'azienda è stata per il primo dicembre dello scorso anno, però poi è una possibilità che oggi c'è, indipendentemente diciamo dal fatto che sia in una giornata precisa, tutti hanno la possibilità, prendendo un accordo col proprio manager, di lavorare da casa quando è possibile. Bene, grazie, il tempo purtroppo è finito, ma ne riparleremo sicuramente. Ovviamente abbiamo parlato di un episodio, ma che è significativo di un atteggiamento, dicevamo all'inizio, di un atteggiamento da parte delle imprese nei confronti delle problematiche della famiglia e lavoro. Ne parliamo con Mario Molteni, professore della Cattolica, ma anche direttore dell'Alta Scuola Imprese e Società dell'Università Cattolica, che ha, in concerto con la Regione Lombardia, proclamato questo premio Famiglia e Lavoro, che ha proprio questo obiettivo di riconoscere le aziende, piccole e grandi che siano, che si occupano del tema della conciliazione. Ed è stato un successo questa edizione. È stato un successo, basta pensare che abbiamo avuto più di 125 progetti tra imprese, organizzazioni non profit e anche pubblica amministrazione. Che vuol dire che le aziende stanno facendo sul serio su questo tema. Sì, perché siamo arrivati alla terza edizione e abbiamo avuto uno sviluppo esponenziale dei casi, e abbiamo notato anche una grossa creatività nelle iniziative che le aziende di tutti i livelli sanno porre in essere. Aggiungiamo anche, professore, che nel momento così difficile per il sistema, per il welfare, per il sistema paese, che l'azienda recuperi o che addirittura propenda per questo ruolo di secondo welfare è particolarmente importante. Voi avete lavorato, state lavorando su questo? Sì, è particolarmente importante. Una delle cose che abbiamo anche osservato è che le imprese stanno dialogando con i dipendenti per imparare da loro quali possono essere i servizi aggiuntivi mirati per le loro esigenze, quindi queste politiche innovative sono anche frutto di un dialogo che si sta intensificando. Grazie professor Molteni. Premio Famiglia e Lavoro quindi non soltanto una celebrazione fine a se stessa, ma un incentivo culturale per un cambiamento profondo. Questa è l'ultimo intervento di questa puntata dedicata al lavoro per il primo maggio. Vi ricordo di segnalare le vostre iniziative di responsabilità sociale no profit a ferribotti@radio24.it. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Mauro De Angeli in regia. A risentirci.